giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Riprese per il settimo giorno le ricerche di Christian Molnar, il 25enne romeno travolto dalla piena del Natisone con le due ragazze annegate. I familiari sperano ancora di trovare vivo il giovane inghiottito dal Natisone, chiedono di continuare le ricerche e confidano nella procura per accertare eventuali responsabilità. Il governo sta lavorando sul superamento del meccanismo del click day per l'assunzione di lavoratori dall'estero. L'annuncio della ministra del lavoro Calderone da Udine, dove si trova per due incontri, il click day ha fatto emergere centinaia di richieste irregolari anche in Friuli Venezia Giulia. Pubblicato il programma della visita del Pape a Trieste il prossimo 7 luglio, prima l'intervento al congresso per la settimana sociale dei cattolici, quindi la messa in Piazza Unità. Papa Francesco incontrerà anche un gruppo di migranti. Alle 14 rientro in Vaticano. Il privato accreditato è pronto ad assicurare un aumento del 35% delle prestazioni sanitarie. Soddisfatta per il possibile aumento dei fondi, Asso Salute, che in regione raggruppa una ventina tra le principali strutture private. Il long covid ha colpito soprattutto le donne. Chi è stato ospedalizzato più a lungo è uno dei dati emersi dalle ricerche sui biomarcatori, di cui si discuterà oggi e domani a Udine. Oltre 204.000 spettatori nella stagione 2023-2024, un record assoluto per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che oggi ha presentato il bilancio. Trieste e il Mare, coproduzione con Trada Sloveno Miela. Questa sera il festival Let's Play dal Verdi di Gorizia agli studi Rai è diventato un radiodramma, la cripta dei cappuccini di Roth. Basket, ad Esio la pallacanestro Trieste per il bis contro Cantù nella finale playoff tra i biancorossi e in forse Candussi. Diretta su Rai Sport, maxi schermo al Pala Trieste. Pallanuoto Trieste, ingaggiato il portiere Lazovic, 34enne nazionale montenegrino, nelle ultime 4 stagioni ha vinto altrettanti scudetti in Francia. Buongiorno da Maria Spezia, Andrea Cobra in studio per questa edizione del giornale radio regionale. 7 giorni di ricerche, ancora non si trova Christian Molnar, il 25enne romeno travolto dalle acque del Natisone in piena. I familiari chiedono di proseguire a oltranza e confidano nell'operato della procura di Udine sull'accertamento di eventuali responsabilità. C'è un nuovo video emerso in queste ore del tragico episodio del Natisone girato dal ponte romano da un passante. Oltre 3 ragazzi abbracciati si vede un particolare che finora era stato solo raccontato e mai mostrato. A 10, forse 20 metri da loro si nota un soccorritore che disperatamente tenta di avvicinarsi a nuoto. È un soccorritore dei vigili del fuoco formato per questo tipo di attività, collegato a una corda senza cui sarebbe stato trascinato via dalla corrente. Disperate le sue bracciate nel tentativo di raggiungere i 3 giovani e fornire loro un appiglio. Fuori dall'inquadratura c'è anche un gommone, mentre in un altro video di qualche minuto più tardi si intravede un cestello con i vigili del fuoco che lasciano cadere delle funi nei pressi della rapida a cui nessuno riuscirà ad aggrapparsi. In quei minuti si alzano in volo 2 elicotteri, uno dei vigili del fuoco da Venezia e l'altro dalla vicina Campo Formido del soccorso sanitario regionale. Non arriveranno in tempo. Intanto, dopo il rito funebre di ieri di Patrizia Cormos di 20 anni e Bianca Dors di 23, i feritri sono stati trasferiti in Romania per i funerali di domani. Mentre si continua a cercare Christian Molnar, i suoi familiari non disperano ancora di trovarlo vivo e chiedono di andare avanti con le ricerche. Ha fatto sapere il loro legale Gaetano Laghi, che ha espresso fiducia nei confronti del lavoro della procura per accertare eventuali responsabilità penali omissive nei soccorsi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento, il governo vuole rivedere e superare il meccanismo del click day sul decreto flussi, meccanismo sotto la lente di ingrandimento dopo che in tutta Italia e anche in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati moltissimi casi di irregolarità. Un tema affrontato dalla ministra del lavoro e delle politiche sociali, Elvira Calderone, che si trova a Udine per 2 incontri, uno all'Istituto Bearzi, l'altro nella sede di Confartigianato. Visita al Bearzi della ministra Marina Elvira Calderone come titolare del Dicastero del Lavoro. L'istituto infatti era la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, studente morto in fabbrica all'ultimo giorno di stage, ma anche per la ministra Calderone come referente per le politiche sociali. Proprio in questa veste ha discusso con l'economo della scuola Gian Pietro Pettenon dell'integrazione nel tessuto lavorativo e sociale dei minori stranieri non accompagnati. La necessità di adeguati percorsi formativi, onde evitare che i ragazzi siano lasciati a se stessi, con ricadute anche sull'ordine pubblico, è un tema emerso pure in Friuli Venezia Giulia. Il Bearzi ne accoglie 25 e chiede l'istituzione di laboratori speciali dentro le comunità per avviarli un'attività in maniera protetta e nel frattempo insegnare loro la lingua, l'educazione civica, le norme sul lavoro e sulla sicurezza sul lavoro. Al momento infatti è impensabile e troppo rischioso inserire in azienda un minore che parla poco italiano. Un giovane però va sempre impegnato in attività, sottolinea l'economo Pettenon, e dell'attività che svolge gli si può insegnare qualcosa invece che farlo sedere dietro un banco e riempirlo di contenuti. A mezzogiorno l'incontro tra la ministra e gli studenti, a margine parlando con la stampa sui casi di furti di identità legati al portale del decreto flussi, la ministra ha affermato che si sta ragionando sul superamento del click day, che è una procedura informatica la quale si presta anche a situazioni di difficile gestione nell'identificazione delle persone che poi entrano in Italia. L'onorevole Walter Rizzetto ha annunciato infine che il 4 luglio, in un evento alla Camera dei Deputati, verrà dedicata un'aula della Commissione Lavoro Pubblico e Privato, la prima aula parlamentare dedicata, alle vittime sul lavoro. Un atto simbolico che arriva al termine di un percorso avviato dopo la scomparsa di Lorenzo Parelli. Udine, Tillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Pubblicato il programma della visita di Papa Francesco a Trieste il prossimo 7 luglio in occasione della 50ª settimana sociale dei cattolici, coprirà l'arco di una mattinata. Il pontefice arriverà al centro congressi alle 8, sarà accolto dal cardinal Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nel successivo incontro con i partecipanti alla settimana sociale, Papa Bergoglio pronuncerà il suo discorso, al termine del quale incontrerà brevemente alcuni gruppi di rappresentanti ecumenici, esponenti del mondo accademico, ma anche migranti e disabili. A seguire, in Piazza Unità d'Italia, la messa con il Papa che pronuncerà l'omelia e l'Angelus. Il rientro in Vaticano è previsto per le 14. Dalla sanità privata accreditata della Regione, positivi i giudizi sul decreto liste d'attesa del Governo, che prevede un incremento di risorse a favore del comparto a fronte di un aumento di prestazioni. Già oggi le strutture della sanità privata accreditata potrebbero incrementarle del 35% nell'immediato. Sulle nuove misure del governo per ridurre le liste d'attesa, che chiamano in causa anche il privato accreditato per garantire le visite nei tempi previsti, positivo il commento di Assosalute, che in regione raggruppa una ventina tra le più grosse strutture private accreditate, tra le quali il Policlinico Triestino e la Casa di Cura Città di Udine. La medicina privata accreditata è una delle braccia della medicina pubblica ed è in grado di dare un numero di prestazioni certo di fronte a una spesa certa, rimarca il vicepresidente dell'associazione Giovanni Battista Bellis, che guarda con favore all'annunciato aumento di fondi per il suo comparto. Bellis segnala che in questo momento le strutture private accreditate possono già assicurare il 35% in più di prestazioni nell'immediato, potendo contare su 2.500 addetti e attrezzature d'avanguardia. È solo una questione di budget, aggiunge, rammentando, dati alla mano, che coi poco più di 100 milioni all'anno dall'ultimo contratto triennale con la Regione prorogato sino a dicembre prossimo, la sanità privata accreditata nel 2022 ha erogato oltre 2 milioni di prestazioni, qualcosa in più nel 2023, grazie ai fondi aggiuntivi per arginare le fughe di pazienti in Veneto. Perplessi sul decreto liste d'attesa i sindacati dei medici e sanitari. Per il segretario regionale del sindacato medici ospedalieri CIMO, Giulio Andolfato, ottima la proposta di impiegare le strutture pubbliche anche nei fine settimana, che va però associata all'applicazione dei dettami del nuovo contratto nazionale di lavoro, che prevede un orario di servizio mensile scritto e firmato in cui siano chiari i turni del lavoro e quelli del riposo, e che fino ad ora, dice, è rimasto disatteso. Il pericolo che si intravede, aggiunge Andolfato, è che in nome delle liste d'attesa e di qualche spicciolo si abusi della fatica di chi opera un lavoro molto delicato, con i rischi che questo comporta. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ruolo chiave durante il Covid dei biomarcatori, ovvero gli indicatori della malattia, verrà analizzato in un convegno in due giornate organizzato dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. I lavori cominceranno oggi pomeriggio alle 15. Tra i relatori di domani ci sarà Maria De Martino, dottoranda in medicina molecolare all'Ateneo Friulano. Le abbiamo chiesto di spiegarci innanzitutto cosa sono i biomarcatori. Il biomarcatore è un indicatore biologico che è correlato con una determinata malattia e viene utilizzato per la diagnosi e per la prognosi di questa malattia. Finito il Covid, la ricerca non si è fermata, anzi proprio attraverso i biomarcatori avete potuto analizzare soprattutto il long Covid. Chi ha colpito e perché? Il long Covid è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Udine e la Clinica di Infettivologia della conseguenza a lungo termine sulla salute causata dall'infezione da Covid. I più colpiti sono stati le donne, le persone che sono state ospedalizzate durante l'infezione da Covid, quindi persone che hanno avuto un'infezione più grave, e inoltre persone con una maggiore quantità di anticorpi da IgG contro il SARS-CoV-2, sviluppatosi durante la fase acuta della malattia. Proprio in questo caso parliamo di biomarcatori. Grazie ai biomarcatori avete studiato anche come hanno risposto i pazienti nella fase acuta del Covid. Che cosa è emerso? Questo studio che abbiamo fatto con la clinica infettivologica, la biologia molecolare, la patologia clinica ed esperti in intelligenza artificiale, appunto voleva differenziare pazienti Covid più gravi da meno gravi. Siamo riusciti a individuare 9 proteine sovraespresse o sottoespresse nei pazienti con Covid severo. Questo ci ha dato la possibilità di sviluppare delle cure mirate e velocizzare l'individuazione di un paziente che avrà un decorso di malattia più difficoltoso. E questo che cosa ci dice per il futuro? Questo si riuscirà a dire a priori come trattare questo paziente, perché riusciremo a sapere subito se questo paziente sarà un paziente più o meno grave. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultimi 2 giorni di campagna elettorale prima delle europee e delle comunali. La slovenska Skupnost candida una propria esponente nelle liste del Partito Popolare sudtirolese. Sentiamo quali sono gli obiettivi. Collaborazione di lunga data, quella della slovenska Skupnost, il partito della minoranza slovena in Italia, con la Südtiroler Volkspartei, il punto di riferimento della comunità tedesca in Alto Adige. Collaborazione che si rinnova in chiave europea. Alle elezioni del fine settimana la SVP candida anche Franca Padovan, sindaca uscente di San Floriano del Collio. Obiettivo chiave: far sentire più forte la voce delle minoranze a Bruxelles. Diciamo che le minoranze non sono tanto ascoltate, devo dire, nell'Europa. Qua bisogna dare un punto in più, perché è stato fatto anche questo Minority Safe Pack, che poi non è stato accettato. Mi sembra che c'è ancora da lavorare. Ecco, su questo punto bisogna dare una svolta, ma una svolta decisiva. Un'elezione che servirà anche come primo banco di prova per la nuova dirigenza della slovenska Skupnost, eletta a gennaio, protagonista di una chiara apertura verso la maggioranza che governa la regione. Sì, adesso sarà il momento di vedere a che punto siamo, perché sono l'unica rappresentante slovena in tutto il Friuli. Vediamo se è la volta buona che prenderemo dei voti, diciamo, cospicui. È questo che mi auguro. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Ecco le temperature registrate alle 11, a Trieste 22,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi, a Gorizia 26 gradi, Udine Pordenone 24, a Tolmezzo 23, Tarvisio 22 gradi, Forni di Sopra 19, Sappada 18, Piancavallo 16, sul Monte Zoncolan 12 gradi. Tornando sulla costa, Lignano 25 gradi, a Grado 23,5, temperatura del mare di 23 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per domani: cielo poco nuvoloso su bassa pianura e costa e variabili altrove. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana tra il pomeriggio e la sera. Localmente non si esclude qualche temporale di forte intensità, specie sulle prealpi. Venti a regime di brezza. A Udine i carabinieri hanno celebrato i 210 anni dalla fondazione dell'arma. La radiografia regionale evidenzia numeri significativi per i reati nell'ambito della violenza di genere e per le truffe informatiche. 210 anni di storia, 210 anni di tradizioni dell'arma dei carabinieri sono stati festeggiati alla fiera di Udine alla presenza delle autorità della cittadinanza. 200 i servizi giornalieri in media dedicati al controllo del territorio, quelli assicurati dall'arma dei carabinieri in Friuli Venezia Giulia. I reparti regionali si occupano di circa il 70% dei reati denunciati, di questi ne scoprono oltre la metà, ha detto il comandante della Legione Francesco Azzeni nel corso del suo intervento. Non presenta fenomeni di particolare rilievo la situazione della sicurezza in regione, secondo il generale. Sul sistema di ordine pubblico ha detto che da oltre 40 anni vede nel modello di coordinamento la casa comune delle forze di polizia con l'incessante impegno dei prefetti. Si registra una crescita dei reati denunciati di violenza di genere, reato verso il quale il Comando Generale dell'Arma ha potenziato gli strumenti per interagire con la rete nazionale di monitoraggio, formando referenti che si raccordano con i rappresentanti locali delle strutture antiviolenza in legione, in collaborazione con Soropmist Italia. Sono già stati realizzati 5 locali dedicati alle audizioni delle vittime vulnerabili, la cosiddetta una stanza tutta per te. Significativi sono le truffe, le frodi informatiche, illeciti che colpiscono le fasce più deboli, ricorrendo spesso a modalità ripugnanti che provocano notevoli stress emotivi ai malcapitati. Importanti gli investimenti in regioni, anche sulle strutture, grazie ai fondi messi a disposizione, che consentiranno l'acquisto della stazione di Trieste Porto e la ristrutturazione delle compagnie di Aurisina e Palmanova. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, coinvolto in un incidente stradale, agli agenti della polizia di Trieste intervenuti per i rilievi, ha presentato una patente austriaca risultata falsa. L'uomo triestino residente in città è stato denunciato e l'auto è stata posta sotto sequestro. Ora vi raccontiamo la singolare storia di una donna che visse per più di 40 anni nei boschi sul Carso. Una vicenda sulla quale la triestina Susanna Rigutti ha scritto un libro dal titolo Le lunghe notti di Efa, la signora dell'Anaro. In questi boschi verdi, accoglienti in primavera ma ardui negli inverni freddi con la bora, visse Albina Muženić, conosciuta a tutti i frequentatori del Carso come Efa, l'eremita del Monte Lanaro. Una donna che all'età di 40 anni e alla fine degli anni 40 decise di vivere con i suoi animali, pecore, capre, galline, gatti, un asino e un cane. Una donna determinata, forte e con un modo di fare spesso brusco e rude che le costò la fama di una persona cattiva che odiava la gente. I bambini. Era originaria di Maresiche, vicino a Capodistria, paese che ha lasciato negli anni 30 con suo marito per cercare una vita migliore a Trieste, città dove rimase vedova. Da lì la sua decisione di trasferirsi sul Carso a Ruppimpiccolo, in una casetta diventata dopo qualche tempo una vera e propria dimora per animali che i paesani non avevano gradito. Decise così di ritirarsi nel bosco. Dormiva in un buco scavato nella terra. Poi gli amici le costruirono una piccola baracca di legno. Ognuno le portava qualcosa e i vigili del fuoco e la guardia forestale le procurarono una piccola cisterna per l'acqua. Scendeva in paese appunto a guardare la TV, le persone le mettevano via i giornali perché Efa comunque era una persona colta per quel periodo, non era un barbone, era una persona che comunque leggeva, scriveva, traduceva. Sapeva sia l'italiano che lo sloveno. Una sera, tornando a casa e attraversando il bosco nel buio, Efa cadde e si fece male. Era inverno e non riuscì a tornare a casa. Morì l'8 gennaio del 91. Ha avuto però questa forza enorme di vivere fino a quasi 90 anni. Ha visto passare il mondo, lo seguiva, ma non ha voluto farci parte perché non lo sentiva suo. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Un gettone di 400 euro mensili per i volontari sportivi, senza tasse e contributi, a fronte di spese per attività svolte anche nel comune di residenza. Lo prevede la bozza di decreto legge approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio scorso. I dettagli sono stati presentati durante il convegno sulla riforma del lavoro sportivo organizzato a Udine da Credi Friuli. È definito un volontario sportivo chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno in via indiretta, ma solo per fini amatoriali. Attualmente non può essere retribuito, ha diritto solo al rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto al di fuori del comune di residenza, con eventuale autocertificazione fino a 150 euro mensili. Siamo agli spettacoli, quarta edizione a Trieste per Let's Play, il festival realizzato dal Teatro La Contrada, dal Teatro Stabile Sloveno e da Bonaventura Teatro Miela. Ad aprire la rassegna, che si svolge nel giardino del Museo Sartorio, Trieste è il mare, una coproduzione dei tre teatri, un testo scritto da Stefano Dongetti in collaborazione con Lino Marrazzo, che firma anche la regia. Un mare che simbolicamente diventa città e viceversa, e viene raccontato attraverso le parole di poeti e scrittori triestini, classici e contemporanei. Gli interpreti sono Ariella Reggio, Alessandro Mizzi e Ilia Ota, che firma anche le musiche con Enza De Rose. La videografica è di Mario Bobbio. Stasera l'appuntamento è alle 21, repliche il 20 e il 27 giugno. Intanto arriva il bilancio da parte del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ancora numerose gli spettacoli in programma a Rossetti in una stagione mai così densa. Una stagione eccezionale, il Rossetti fa il pieno di spettatori di incassi, oltre 204.000 presenze, più spettatori che abitanti in città e oltre 5 milioni e mezzo di euro di ricavi con un incremento del 62% di incasso da abbonamenti. Il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Granbassi, sottolinea la capacità del Rossetti di essere motore culturale ma anche economico e turistico, perché se è vero che il 55% degli spettatori proviene dalla provincia triestina, del restante 45%, il 15% è composto da spettatori stranieri e il 30% proviene da fuori regione. Il paragone con i numeri di 6 stagioni passate indica una crescita di 100.000 spettatori e il 170% di ricavi in più. Le produzioni proprie sono invece la ricchezza che il Rossetti esporta. La coscienza di Zeno, diretta da Paolo Valerio, direttore artistico del Rossetti, ha fatto il giro d'Italia raccogliendo successo di critica e pubblico. Il lavoro dello Stabile si traduce quindi nell'ultima stagione in 118 titoli diversi fra produzioni, ospitalità e 534 aperture di sipario. Il futuro si intreccia con il dato sull'età media degli spettatori, che si attesta a 43 anni, scesa di 12 anni rispetto alla stagione pre-Covid. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Cripta dei Cappuccini, lo spettacolo teatrale ispirato al capolavoro di Joseph Roth, andato in scena in prima assoluta l'11 maggio al Teatro Verdi di Gorizia, è ora anche un radiodramma realizzato dalla RAI. La prima messa in onda integrale è in programma sabato 8 giugno alle 22.15 su RAI Radio 3, mentre il giorno dopo, domenica 9, andrà in onda nell'ambito dei programmi regionali del Friuli Venezia Giulia, la prima di 4 puntate. Il radiodramma è stato prodotto negli studi RAI di Trieste sotto la regia radiofonica di Mario Mirasoli Sola e quella teatrale di Giacomo Pedini, direttore artistico del Mittelfest e ideatore del progetto Inabili alla morte, una trilogia di cui La cripta è il primo elemento. Le voci sono di Nicola Bortolotti, Francesco Migliaccio, Camilla Semino Fabro e Simone Tangolo, gli attori che hanno fatto parte del cast a teatro. Passiamo allo sport, iniziando dal basket. Tornano ad affrontarsi stasera Cantù e Trieste nella gara 2 della finale playoff. Dopo il successo dei biancorossi nella prima partita, quella di oggi è una partita fondamentale. I padroni di casa non possono più sbagliare, mentre Trieste, che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, può mettere a segno il colpo del KO prima della terza partita al Palarubini. L'impianto di Valmaura stasera sarà aperto ai tifosi, che potranno vedere la partita su maxischermo. Reset, ma con un capitale guadagnato e già in cassaforte, è il giorno di gara 2 di finale. Ad Esio, Trieste parte dalla vittoria netta della prima partita, vittoria ottenuta in un ambiente caldo, più di 6.000, record di spettatori stagionali della categoria, di autorità, giocando un primo tempo stellare e un ultimo quarto giudizioso. Cantù, per provare a rimanere in piedi, deve insinuarsi nel lasso di tempo in mezzo, ovvero quando la difesa di Nikolić su Ruzier ha messo in crisi l'attacco triestino, costringendolo a 4 palle perse nei primi 4 possessi del secondo tempo. I biancorossi sanno che i padroni di casa non ripeteranno la pessima prova da lontano di martedì. Lasciarli tirare sarebbe un errore, ma costringerli a pensare soluzioni diverse può aumentare la pressione su una squadra che da 2 anni perde in finale o in semifinale. Dal canto suo, Trieste, 7 vittorie su 7 nei playoff, di cui 5 fuori casa, può giocare leggera. In campo dovrebbe recuperare Candussi, in dubbio fino all'ultimo per una botta subita al ginocchio, ma può contare comunque su un gruppo in estrema fiducia, dove i giocatori in panchina interagiscono con lo staff per cercare soluzioni adatte alla squadra. Stavolta, con un metro arbitrale che magari non sarà perfetto come in gara 2, una strategia potrebbe essere provare a guadagnare qualche tiro libero in più. Inutile rimarcare quanto una vittoria triestina permetterebbe di mettere in fresco le bollicine, visto che poi la serie si sposta al Palatrieste da lunedì. E a proposito, stasera all'impianto di Via Flavia, visione collettiva della partita gratuita sul maxischermo, diretta in chiaro su Rai Sport a partire dalle 20.55 sul canale 58, come tutte le successive partite delle 2 finali. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Un nuovo tassello per la prossima stagione in A1 della Pallanuoto Trieste. Il club alabardato ha ingaggiato il portiere Dejan Lazovic, 34 anni, nazionale montenegrino. Dal 2015 ha giocato in Italia con lo Sport Management, disputando una finale di Eurocup. Nel 2020 si è trasferito al Marsiglia, la squadra più blasonata di Francia, e in 4 stagioni ha vinto altrettanti scudetti e 4 coppe nazionali. Ha totalizzato 80 presenze in Champions League, mentre con il Montenegro ha conquistato portato un argento nel 2016 e un bronzo nel 2020 agli europei. Adesso è nel pieno della preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Lazovic è uno dei portieri più bravi in circolazione in Europa, ha dichiarato il neo allenatore della Pallanuoto Trieste Maurizio Mirarchi, e per noi rappresenterà un punto di riferimento fondamentale. Alle 12.55 si chiude questa edizione del giornale radio regionale, redatta da Maria Spezia, Giampaolo Mauro e Andrea Covre. In regia Mauro Comin, grazie alla collaborazione tecnica di Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Maria Spezia e Andrea Covre, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.